Incipit Letterari, un podcast di Ginesta Fabbrica della Conoscenza. Daniela Belardini legge Mrs. Dalloway di Virginia Woolf. La signora Dalloway disse che i fiori sarebbe andata a comprarli lei, poiché Lucy aveva già il suo bel da fare. Bisognava tirar giù le porte dai cardini, venivano gli operai di Rumpelmayer. E poi, pensò Clarissa Dalloway, che mattinata, limpida, come per farne dono ai bimbi su una spiaggia. Che delizia! Che tuffo! Sempre, infatti, le aveva fatto questo stesso effetto a quei tempi, allorquando, spalancata la porta finestra con un lieve cigolio dei cardini che ancora le pareva di udire, lei si tuffava nell'aria aperta a Burton. Com'era fresca là, com'era calma e più silenziosa che qui, ovviamente, l'aria del primo mattino. Come il frangersi di un'onda, il bacio di un'onda, fresca, pungente, eppure, per una ragazza di 18 anni qual era lei allora, solenne, poiché essa sentiva, in piedi, presso la finestra aperta, che qualcosa di tremendo stava per accadere e guardava quei fiori, quegli alberi che sbucavano fra lievi spirali di bruma, le cornacchie, levarsi, planare. Stava là, immota, a guardare, quando ecco Peter Walsh che le dice «Stiamo a meditare sugli ortaggi?» Fu così che le disse «Io per me preferisco le persone a cavolfiori!» Le disse così? Doveva averglielo detto una mattinata di quelle, quando lei era uscita in terrazza all'ora di colazione, Peter Walsh. Tra non molto sarebbe tornato dall'India in giugno o in luglio, non ricordavo esattamente quando, che le lettere di Peter erano tremendamente barbose.